dances on the Seine. Oh, Rio, Rio, banana cross, you're Rio Grande. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K. Un saluto da Drago. Ecco, oggi Drago è un po' strano, ve lo dico prima così. Perché sono strano, scusa? Perché tieni la testa un po' storta, sai come le galline. Guardi un po' tutto il traverso. Ma no, ma perché? Per via dello scotoma scintillante che mi passeggia davanti all'occhio destro, capito? Ah, già. Una macchia, ah, già. Quindi per vedere bene. Dimentichiamo sempre, cari ascoltatori, che questo è un asilo, ma contiene dei rottami umani, no, tipo Drago. Vabbè, prima di mandarci all'asilo non ci hanno mica fatto le visite mediche di idoneità. Se ce le facevano, di? Idoneità. Dillo bene, idoneità. Se ce ne meno facciamo. Male, Drago, per questo. Meno male, Drago, sono va. Meno male, Drago, sennò tu non le passavi. Adesso invece, dopo la morte del calciatore Morosini, ahimè, è scoppiata la febbre delle visite mediche. Ah, sì. Anzi, cardiologi di tutta Italia sono oberati dagli impegni perché ogni azienda fa visitare i dipendenti, qualsiasi lavoro facciano, per evitare che succeda una disgrazia. Come sempre si fa tutto troppo tardi. Sì. Poi, tra l'altro, nel caso di Morosini c'era anche l'auto dei vigili che chiudeva la strada all'ambulanza. Sì. Hanno dovuto rompere un finestrino per spostarla. Hai voglia a fare visite mediche preventive. Beh, però io ho solo uno scotoma scintillante dovuto a una corioretinopatia sirosa centrale, quindi non rischio un infarto e nemmeno quindi i vigili non possono. Sì, no, guardi tutti di traverso come le galline, non è grave, però. C'è solo il rischio che qualcuno si arrabbi, no? Venga a dire, cos'hai a guardare tu? No, niente, solo uno scotoma scintillante all'occhio destro, mi arriva un pugno sull'occhio destro. Scintillante, no? Sì. Pugno scintillante. Vedo le stelle. Queste è molto divertente. I got up one morning with a flash in my eyes. It wasn't the sun. I was fucking blind. I got a shining scotoma. I can't see a shit. A shining scotoma. I pissed in my fridge. Shining scotoma puts you in a coma. Wear a pajama, take a banana or a salama, and stick it down in your ass. Oggi è giovedì 26 aprile, quindi è come se fosse lunedì. Cioè, adesso qui c'è un sacco di gente che mi sta seguendo su Facebook, con questo mio, diciamo, nuova invenzione del calendario. Che sì. Io ho fatto, ho creato un'app sullo smartphone e ho risistemato il calendario, che ormai è tutto sballato. Perché noi siamo. È tutto sballato. Sì, perché. Allora, oggi è giovedì. No, ma il mondo, la rotazione terrestre, guadagnare i giorni meno, fare meno. Non bastano gli anni bisestili, quelle cose di febbraio 29. Ci bisogna. Un orologio atomico. Esatto, e bisogna cambiare proprio concetto, capito? Nel senso, oggi è giovedì 26 aprile, sì. Ma è come se fosse lunedì. Perché? Capito? Perché ieri era festa. Sì, ma è qui in Italia, vabbè, dai. Ma cosa vuol dire, Drago? Dai! Sei tu che... non... cosa? Non ho capito. Drago, è il ghigno del giovedì. Come il ghigno? Cosa stai dicendo? Il ghigno del giovedì. Ma come, dai? Il ghigno che appare sul volto a tutti noi adepti del venerdì, quando scatta il momento del giovedì. Vabbè, il ghigno del giovedì. Senti già il venerdì. Il gatto dell'allergia del giovedì, adesso esatto. Il ghigno del giovedì. Non era meglio gli gnocchi del giovedì a sto punto? Vabbè, ma Drago, dai. Senti com'è. Ormai K ghigna e basta. Il paese affonda, lui ghigna. È un po' la moda del momento, Affonderemo sghignazzando tutti quanti. Intanto volevo segnalare che quei secchioni di l'inchiesta.it hanno preso di mira il bambino Cruciani e la sua zanzara, perché, dicono, è troppo facile invitare ospiti a rischio come la Santanchè e Borghezio e poi aspettare che dicano una castroneria. Cioè, è troppo facile venire ripresi da tutti i TG se si enfatizza ogni frase pronunciata durante le conversazioni tra Cruciani che provoca i suoi ospiti. E lui ridacchia. La Santanchè fa il parallelo così estemporaneo tra la Minetti e Nil De Jotti e subito tutti a commentare come se fosse una cosa seria. E a dire che è meglio la Minetti. metti? Per fare, sì. Per il venerdì. Come donna in senso assoluto era meglio la Nilde Iotti, dai. Ma cosa vuol dire senso assoluto, senso relativo? Drago, devi limitarti a fare... Perché è lì la chiave del mistero. Ho capito. E poi la Iotti mica si travestiva da Ronaldinho, ballava intorno al palco. Ma non era la Minetti che si travestiva da Ronaldinho, la Minetti si travestiva da suora. Sì, proprio. Quindi Cruciani ha avvertito, l'inchiesta.it ha scoperto il trucchetto, che poi non era così difficile da scoprire. Com'è che tutti riprendono le interviste della Zanzara? La domanda se la saranno fatta in tanti, no? Tantissimi. Come in tantissimi? Vabbè, certo che se lo sono chiesti, Ma Drago, puoi dire quello che vuoi, Cruciani e la Zanzara, l'inchiesta.com, it. Comunque, il ghigno del giovedì... Non si farà certo distrarre da niente, da nessuno. Altro che Cruciani, altro che la Zanzara. Poi le Zanzare, lo sai che alla fine svolazzare, l'estate, vanno a finire. Come Charles Aznavour. Come triste la Zanzara, che svolasse d'estate, ma si fa bindolar dalla luce azzurrognola e ci finisce dentro e finisce la sua vita esistenziale con un... Come triste la Zanzara. Chiedo asilo. E va bene, non resta altro da dire se non ci risentiamo domani. Domani è venerdì, quindi... Domani è... Vabbè, il giorno di K. Sì, però non ci vediamo alle 16, anzi non ci vediamo mai perché siamo alla radio. Però ci riascolteremo non alle 16.45, bensì alle 22.45. Ma come, perché c'è tutto uno specialone nel pomeriggio e noi facciamo direttamente il chill out. Chill out, senza pericolo, senza piano. After hour. Venerdì.